Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Da tempo si parla di padri separati, di papà separati come nuovi poveri. Effettivamente, se noi facciamo quattro conti, possiamo anche capire perché. Quando una famiglia si separa, l'elemento maschile, il padre, deve dare un assegno. Deve dare un assegno per il mantenimento dei figli e talvolta anche per il mantenimento della moglie. In questa situazione, naturalmente, poi si inserisce anche il problema a casa. Deve abbandonare la casa familiare e trovarne un'altra. Quindi, facendo un po' il conto di tutto questo e poi le spese straordinarie per i figli, si può capire come molti in questi tempi di disoccupazione, e sappiamo cosa significa, non riescano a pagare l'assegno. Abbiamo più volte sottolineato come spesso il costo della crisi gravi anche sulla parte più anziana delle famiglie, quanto i genitori debbano farsi carico, la disoccupazione dei figli che non entrano mai nel mondo del lavoro, dei figli che stanno a loro carico fino ad età infinite. Qualcosa forse che vale la pena di osservare questa mattina mi nasce come curiosità da un titolo su Libero Quotidiano: se l'ex marito non paga gli alimenti tocca al suocero mantenere i nipoti. Il sommario dice: non bastavano mancette coccole ed oggi padri dei padri diventano genitori a tutti gli effetti. Un vero colpo basso per i nonni, non potranno più godersi la meritata pensione. Il Tribunale di Catania ha stabilito che, in ossequio a cosiddetta riforma della filiazione varata con un decreto legislativo, il 154 del 28 dicembre 2013, la faccio corta, che dovrà essere il nonno paterno a sostenere i nipotini se il padre, che è separato dalla moglie, non può occuparsene lui. Quindi la cosa che mi fa pensare è che mettiamo che uno ha un figlio, lo alleva, lo nutre, gli dà i mezzi di sostentamento, lo fa studiare, riesce anche addirittura a favorire una sua possibile entrata nel mondo del lavoro. Questo figlio si sposa, dice finalmente ha preso la sua strada, uno farà il nonno, si occuperà dei nipotini, li andrà a trovare ogni tanto e darà qualche piccolo aiutino. Scoppia il matrimonio, esplode il matrimonio, la moglie scappa, il marito la lascia, si trova un'altra amante, insomma succede una cosa abbastanza frequente oggi. Per un qualsiasi ragione nostro figlio non vuole più onorare quelli che sono gli obblighi dati dal tribunale nei confronti della ex moglie. Dice: papà, io questa non gli voglio dare una lira, non ce li ho, o me ne vado, o è disoccupato improvvisamente qualcosa. Noi dobbiamo anche prenderci carico dell'errore matrimoniale del nostro figlio. Beh, questo è qualcosa che a me fa inorridire, fa pensare che siamo probabilmente di fronte a qualcosa che è come una specie di bomba orologeria. Bisogna essere responsabili anche degli errori matrimoniali e sentimentali dei propri figli. Cosa ne pensate? 800 24 00 24. Nonni per sempre. Gianettore Gassani, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, di questo pezzo lungo e articolato che parla di una qualcosa che sembra una grossa novità oggi su Libero Quotidiano, ne è riconoscenza di questa norma? È qualcosa che accade o qualcosa che comincerà a accadere da oggi in poi? Ma negli ultimi anni, con l'ex articolo 148, che poi oggi è diventato un 316 bis, che magari per gli ascoltatori può significare poco, per un avvocato significa molto, questo principio è stato reso ancora più importante. I nipoti hanno un rapporto con i nonni quasi genitoriale, quasi filiale. Come i nonni hanno il diritto di mantenere rapporti costanti e significativi con i nipoti hanno anche il diritto di essere mantenuti dai nonni quando i genitori non vi provvedono. Per cui c'è un aumento esponenziale negli ultimi tempi, anche a causa della crisi economica che sta investendo il nostro paese, di cause ai nonni, cioè si trascinano in tribunale i nonni. L'oggetto della questione, la prova che non c'è stata l'erogazione dell'assegno di mantenimento da parte del padre o di entrambi i genitori. Che è una cosa che, diciamo, che accade, diciamo, è nella prassi che accade spesso. Che c'è questo inadempimento, quindi sì. Si aprono cause su cause su cause perché il marito non paga, ritarda con l'assegno. Ecco, in questo caso un nonno deve cominciare a tremare se il figlio non è adempiente nei confronti dell'ex moglie. Assolutamente sì, deve cominciare a tremare perché in effetti ci si può rivalere nei confronti della sua pensione, dei suoi beni, delle sue sostanze, per cui diventa un pollo da spennare, il welfare italiano si poggia sui nonni. Ci sono 4 milioni di nonni che fanno i nonni sitter e ci sono altrettanti nonni che possono essere coinvolti e trascinati in tribunale per pagare un assegno di mantenimento ai nipoti, anche nipoti che magari non hanno visto pochissimo la loro vita, ma c'è una legge, non fa distinzioni. Voglio anche capire che sia giusto questo, per la verità, insomma, non è che si può neanche pensare che un nipote possa andare a finire in una casa famiglia perché una famiglia si impegna della vita di quel bambino. Però, scusami Gianetto, vorrei portarla in termini concreti. È chiaro, sì, che un nipotino, prima di finire in una casa famiglia o in un luogo di semireclusione, si debba occupare il nonno, questo sembra gioco forza. Ma io vorrei spostarlo più sull'altra parte di questa triangolazione, che è la ex moglie. Secondo te, in termini di diritto, se c'è una legge non c'è niente da dire, ma ragionandoci, ti sembra corretto che un nonno debba anche accollarsi, vista la difficoltà e la farraginosità di tante cause matrimoniali, anche diciamo il già complicato combattimento cioè fra marito e moglie? Perché sembrerebbe che a questo punto sarebbe più facile per un figlio scriteriato, ti faccio l'esempio estremo, dire ah, io non ho nulla, non ti pago, non ti do niente, se la vedono i miei genitori. Beh, è successo, purtroppo è successo, c'è una tipologia del genere. La legge dice che entrambi i genitori devono concorrere in proporzione alle loro sostanze, alle loro capacità lavorative e retributive, al mantenimento dei figli. È evidente che non si può nemmeno esagerare su questo principio. Il giudice valuterà anche se nel caso della madre che promuove questa azione non c'è anche una sorta di approfittamento, però resta il fatto che se c'è un assegno di mantenimento che il padre deve pagare, è evidente che a quel punto ferme anche le iniziative di carattere penale contro quel padre che si disimpegna. Attenzione, per disimpegnarsi dal mantenimento dei figli bisogna poi provare effettivamente uno stato di incapacità a produrre reddito, perché un uomo che si mette davanti al bar a prendere il sole e non fa nulla per i figli può essere anche condannato severamente in sede penale. Quindi poi non so se il gioco vale la candela, perché molte volte queste condanne penali sono più che altro simboliche. Certo, capisco il... Sentiamo un attimo il parere del pubblico, come immaginavo su questo tema sta intervenendo. 800240024, giusto che sui nonni ricadano anche le colpe, se tali si possono chiamare, non è certo la mia terminologia, ma comunque gli errori matrimoniali ai propri figli. Bruno, buongiorno. Buongiorno, scusi, non so se sbaglio, ma ho percepito nel dibattito un tono molto ostile e negativo alla sentenza. No, ostile, ho scoperto io questa mattina, io partecipo al mio pubblico anche delle mie lacune, delle mie perplessità, che un nonno si debba accollare anche le spese della moglie di un figlio che ha sbagliato il matrimonio mi sembra esagerato, però se è così la legge mi inchino di fronte alla legge. Lei come la pensa? Allora chiedo scusa per aver capito male. No, io volevo semplicemente dire che non solo non mi sembra sbagliata la sentenza, ma credo che per ogni nonno non ci sarebbe nessun nonno, credo in sano di mente, che possa pensare di negare il sostegno ai nipoti qualora i genitori non possono. Io la facevo un po' diversa, dai figli non ci si stacca mai, un figlio maggiorenne, adulto, responsabile delle proprie scelte, comunque sia, se non ottempera, e lei sa esattamente le cause matrimoniali, ce ne testimonia l'avvocato Gassani, in che guazzabuglio di ricatti ci si vada a infilare, se a un certo punto decide di non onorare più l'assegno che deve alla moglie, questo ricada sul nonno. Il nonno improvvisamente si trova una persona scatenata sotto casa, dice tuo figlio non mi dai soldi, me li devi dare te. Questo mi lascia qualche perplessità. Stefano, lei come la pensa? Io faccio un insegnante, quindi mi capita di vedere famiglie che si disfano e c'è queste cose qui. Penso che quando ci sono dei genitori che se ne vanno e per sfiga o per scelta non pagano più quello che dovrebbero ai figli e non all'ex coniuge, sia più che giusto che intervengano i nonni. Sono i nonni paterni, sono i nonni materni, spesso sono anche d'accordo con il figlio, perché va anche detto questo, che i figli se ne tornano a casa dei genitori, perché gli uomini che prendono e se ne vanno a vivere da soli sono pochini. E che ci sia qualcuno che gli dice, ok, adesso caro nonno, tocca a te, a me sta veramente bene, sono pienamente d'accordo. È vero che questi non si emanciperanno mai. Gianetto Gassari, però degli sms mi fanno pensare a un altro risvolto a questa domanda, se vogliamo giocare sui paradossi, poi fino a un certo punto paradossi, perché tu mi dici che in realtà è processuale che tocchi tutti i giorni. Questo però discrimina i nonni di figlie femmine rispetto ai nonni figli maschi, perché questo riguarda soltanto quelli che hanno un figlio maschio. Chi ha una figlia femmina dice, mi scrive un ascoltatore, dice, per fortuna io ho soltanto figlie femmine. Sì, indubbiamente questo può essere discriminatorio, ma anche adesso se un giudice, parto dal presupposto che sono d'accordo con questa norma, perché io ripeto, guardo sempre l'aspetto del diritto del minore, per cui confermo anche un po' quello che dicevano gli altri ascoltatori. Certo, c'è questa discriminazione, chiamiamola così, però c'è anche da dire che molte volte i nonni materni sono anche coloro i quali fanno i nonni sitter, dedicano più tempo ai nipoti, quindi c'è una sorta di compensazione, anche se credo che essere nonni paterni in quanto tali non significa essere nonni in serie B. Questa è un'altra cavolata che certe volte magari emerge, solo perché se magari quei nonni sono genitori di figlie, genitori di figli, a seconda del tipo di nonno, sei bravo o non sei bravo. I nonni paterni meritano rispetto. Sì, beh, rispetto, ma in questo caso sono quelli, visto che tu mi insegni in quanto presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, che in realtà nella maggior parte delle cause matrimoniali poi l'onere del mantenimento spetta l'uomo, quindi il nonno paterno è comunque quello che ha questa sorta di ambascia di dire, speriamo che mio figlio ma quando dico meritano rispetto, che almeno potessero vedere i nipoti, perché non è che devono essere poi i nonni in bancomat, perché certe volte io mi trovo a fare delle cause in cui indubbiamente il nonno è chiamato a pagare l'assegno, poi magari deve elemosinare di stare un'ora con i nipoti. Questa è una cosa vergognosa. Allora, se io che rientra pagare, sempre, diciamo, degli obblighi, ma ho anche il diritto, non c'è bisogno che rientra sempre negli obblighi che si stabiliscono nella causa di separazione, se anche i nonni possono vedere il figlio. Certamente, i nonni oggi hanno un diritto autonomo di avere rapporti con i nipoti, molte volte però diventa un diritto soltanto per prendere i soldi, e i nonni per vedere i nipoti sono costretti a rivolgersi all'avvocato e fare delle cause tristissime per magari stare con i nipotini che adorano, che sono la loro vita, la luce dei loro occhi, magari per un'ora in più vedono fare una causa. Ma chi è che si oppone, questo, diciamo, fa parte, diciamo, del bieco ricatto che ci si fa fra... vergognose, ecco, piccheri, ricatti, insomma, che succedono purtroppo in molte separazioni in un paese come il nostro, qui la separazione sembra una guerra più che una scelta di vita. Gianetto, ci fermiamo un istante per il traffico, poi riprendiamo. Mi sembra interessante vedere però questo coinvolgimento anche doloroso dei nonni in quelle che sono le vicende matrimoniali. Conferma ancora di più quello che ci diciamo sempre, che abbiamo un diritto matrimoniale medievale e a dir poco. Melog, cronache meridiane. Cerchiamo di lottare per poter vedere i nostri nipoti, perché dopo le separazioni vengono a non avere più gli affetti dai nonni, perché già li vedono poco i padri dopo le separazioni, perché c'è un conflitto fra la coppia e queste cose non dovrebbero succedere. Automaticamente il padre lo prende mezza la settimana, mezza giornata, e ogni 15 giorni il sabato mattina e viene 800 24 00 24. Nonni sostentatori a vita, anche il patrimonio dei nonni comunque è legato indissolubilmente al comportamento dei figli, anche quando i figli sono maggiorenni, anche quando crescono, anche quando si staccano e fanno famiglia per conto loro. Stiamo ragionando su una sentenza del Tribunale di Catania che ha stabilito che l'assegno di mantenimento ai nipoti, visto che il padre non può pagarlo, passi ai nonni, che avevano una pensione di 50.000 euro all'anno e devono accollarsi 600 euro al mese di mantenimento ai nipoti, e penso non faranno i salti di gioia. Il pubblico è abbastanza diviso, c'è chi dice che è giusto, fa parte comunque di una regola, i nonni si occupano dei nipotini, sì, ma di nipotini, ma anche della ex nuora forse probabilmente è un po' esagerato. Altri ascoltatori dice, ho sentito una sfilza di stupidaggini, stiamo argomentando un fatto concreto, reale, avvenuto, tutto scoraggia il matrimonio. Sì, in effetti non è che scoraggia il matrimonio, scoraggia di far sposare i figli, uno preferirebbe probabilmente dovrebbe farli far prete o dovrebbe fargli costringerli al celibato eterno, perché se uno deve accollarsi anche poi il peso della famiglia dei figli, probabilmente questo è penoso. Silvia, buongiorno, diamo gli ascoltatori. Sì, buongiorno, io volevo porre una domanda all'avvocato Gassani, ma se i genitori del padre sono defunti, come si risolve la questione? Chi mantiene i nipoti? Se passa ancora di grado. Gianetto Regassani, ricordo, presidente AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Se non ci sono i nonni, chi si occupa della povera moglie separata e dei propri figli? passa anche altri parenti in linea gradata. Ah, quindi può passare anche fratelli? Anche no, sono preoccupatissimo, io ho tre fratelli maschi. Cioè, anche gli zii possono essere coinvolti per quanto riguarda queste questioni, anche questo è abbastanza preoccupante. Ivo, buongiorno. Buongiorno. Più o meno si allaccia al discorso di prima dei genitori deceduti. Facciamo un esempio. Si può non è salvadanaio questa, andiamo a questioni di carattere sociale, perché sulla pensione. Andiamo avanti, sì. Era solo quello, nonno deve mantenere il nipote, il nipote ha diritto a una reversibilità? Ma questo non lo so, non ho gli strumenti, non parliamo di pensioni, parliamo di una questione di tipo generale, sociale. Danilo Masotti, buongiorno. Pronto, buongiorno. Danilo Masotti, fondatore del sito umarels.it, è uno dei più profondi conoscitori di tutti i componenti della seconda e terza età, nei loro usi, nei loro costumi, nelle loro transumanze sociali. Risulta dal tuo osservatorio che questa, che è una legge che ormai da tanti anni è in vigore, abbia poi un'applicazione pratica. L'Umarel deve occuparsi anche della moglie abbandonata, lasciata, cornificata o cornificatrice, abbandonatrice, traditrice del proprio figliuolo? Sai, allora l'Umarel, anche da quando ho iniziato a osservarlo, è sempre stato un bancomat per le famiglie, e quindi non mi meraviglio che ci sia questa cosa. È chiaro che se la moglie del figlio dell'Umarel era in buoni rapporti con l'Umarel diventa un soggetto debole, quindi rischia di sborsare. Ecco, normalmente diciamo il medio pensionato nei confronti quando avviene una separazione, questo sarà un trauma perché sono generazioni ancora non abituate, hanno vicino la loro sdaura per tutta la vita, quindi per loro trovano inconcepibile, ma le nuove generazioni sa come sono fatte, i figli a un certo punto si separano. In che rapporti rimangono con la ex moglie? In che rapporti rimangono con l'ex moglie? Ma nel senso, loro tentano sempre di ricucire lo strappo, ma però alla fine non ce la fanno. Però delle volte, se costretti, gli Umarels allora si trovano in una situazione terribile, che è quella che li costringe di nuovo ad andare a lavorare, perché il vero Umarel appena va in pensione, cioè non va più a lavorare. Quindi può fare dei lavoretti accessori per poter mantenere l'errore sentimentale del figlio. Esatto, cioè queste però sono situazioni molto disperate. Comunque l'Umarel dispone di tantissimo tempo e quindi può agire dove altri non possono agire. Ultimamente ho visto degli Umarels che fanno i babysitter per i figli, anche a pagamento. Molto interessante la nuova figura dell'Umarel, che sta rubando posti di lavoro ai becchini. Ecco, questa è una novità, assoluta. È un ultimo scoop questo è uno scoop che mi ha riferito di recente, quindi come ben sai la morte è un business, ovviamente. Quindi vanno per cimiteri a guardare come scavano le tombe, come fosse un cantiere, dicono no guarda sposta, esatto, là, metti lì. Sì, fanno così, ma si propongono alle agenzie di pompe funebri, a quelli che curano il funerale, e appunto fanno i cosiddetti lavori che nessuno vuole più fare, e quindi questo abbassano il costo del lavoro. Quindi dal cantiere all'inumazione o la risumazione praticamente. Sì, perché poi anche sai questo lo scavare la terra, queste cose sono proprio i materiali che solo invece che il tubo da 100 la cassa da morto, sì, che sta lì sotto da 20 anni. Questo è interessante, è molto interessante. No, questa è proprio l'ho saputo da poco, che ho la fortuna di frequentare degli amici becchini e quindi mi raccontano anche queste evoluzioni. E poi altro mestiere importante, ovviamente gli Umarels hanno i loro orti lungo la tangenziale, adesso va molto il bio, e gli Umarels quindi fanno delle ceste di frutta e vendono i loro prodotti. Che li chiamano bio non sapendo nemmeno cosa significhi. Sì, no, loro fanno questi prodotti, no OGM, sì, CO2. Si vedono passando col treno per Bologna, comunque l'ho visti, sono dei posti indecenti perché sono bruttissimi. Sì, non a caso, io quando ho visto gli Umarels, erano sotto gli occhi di tutti. Sembrano dei baraccopoli. Sentiamo Margherita, buongiorno. Buongiorno, beh, innanzitutto posso solo dire che poveri nonni, e secondariamente io ho una situazione in famiglia di questo tipo, dove mio cognato, oltre ad aver appunto fatto, essendosi sposato la prima volta con due figlie, separato e sposato un'altra volta avendo un'altra bambina piccola, si basa sui miei suoceri che con una minima pensione cercano di aiutarlo. Ma voglio dire, immagino che i figli dovevano essere aiutati fino all'età maggiore. Maggiorenne, primo. Secondo, nel caso uno non riesce neanche a pagarsi il mutuo, devono subentrare anche in questo caso i nonni? Oppure. Questo è ritorniamo in area salvadanaia. Oggi parliamo di una questione matrimoniale. La cosa intelligente la dice un ascoltatore: dice, ma non esiste reciprocità. Se i nonni hanno bisogno, i nipoti non sono obbligati a mantenerli. E questo perché? Lasciamo il punto interrogativo. Alla prossima.